cosa lì. Con le amiche, con gli amici e cose vanno in un bar, si bevono una cosa, chiacchierano, si provano a mangiarsi la pizza, ecco, fanno queste cose qua, non è che fanno nulla di male. Non arriverà il momento di prendersi la macchina pure, non è così? Quanti anni c'ha? 17. Ma non così, ma c'ha 18 anni, per cui dovrà pensare anche a... o a prestargli la macchina a buscarla, non è così? Insomma, vedremo. Invece vuole già prendere la patente, quando compie 18 anni ci si vuole prendere la patente. Vabbè, non c'è problema, sono cose che hanno vissuto tutti. Le abbiamo fatte noi, le devono fare anche loro. Io non sono di quelli restrittivi che non li fanno fare nulla. Certo, ci sono sempre i limiti nella cosa, noi ci sentiamo. Per dire, vieni, fa il messaggio, papà, te la vieni a prendere, io scrivo, alle 10:30 lì. E passiamo, la prendiamo, non c'è problema. Fiducia reciproca ci vuole. E allora, intanto se ne tieni una palla di vento diventano parecchio, vabbè, bisogna che socializzino, che siano, che sappiano comportarsi con l'esterno e tutto quanto, devono confrontarsi, devono parlare, e io sono d'accordo su tutto questo. E tua moglie cosa dice, più libertina o più restrittiva? Mia moglie dice sempre che l'orario lo dobbiamo decidere noi, non lo deve decidere lei di certo. Perché dice, dai, così presto, alle 10:30, fin qua ti stavo arrivando, alle 10:30 e stai portando, ma quello lì è l'orario, o così o poi. 10:30 per una ragazzina non è poco, tu mi dirai che ormai sono tutti quanti liberi, pensano l'una di russa, alle 2, però nei tempi russi le ragazzine piantavano alle 9:30, non so se lo sai già. E non lo so, anche alle 8:30 molte volte, non so, alle 8:30. È così. Allora si rientrava prima, però allora erano più libere perché tutti i giorni della settimana uscivano, invece mia figlia esce solo il sabato, capito? È difficile che esca durante i giorni della settimana, o che vada a studiare da un'amica, oppure se va magari a comprare qualche regalo a qualche amica che compie gli anni, che se la fanno una festa, allora esce per cercare il regalo, ma se no è difficile che settimana esca. Già lo so, purtroppo col tempo che corrono è anche difficile muoversi, dai. Avanti perché? Tu ne hai figli? Negativo, tutte incubatrici ce li ho. Bene, lui, come dire, va bene. sì, adesso ho avuto conferma. Invece non c'è problema, direi che il franchetto è... ci ha presentato per tutto questo tempo, dice che sono Brudoni, no, alla fine ve lo dico, sono Tonino. No, Tonino ha venduto tutto. Certo, ce l'ho sentito da poco io, 15 giorni fa lo sentivo. Ci ha venduto tutto un amico di Usini, e poi c'è altre cose. Però io si faceva sentire se voleva, le andate a casa, te ricordi quando attaccavo? Meglio, me lo ricordo. Ma io così ho sentito, e così sto dicendo, che si è tutto venduto, completamente tutta la stazione. Guarda, io l'ho sentito diverse volte di domenica mattina, questa domenica ho acceso e non c'era, però ho sentito una persona che lo stava chiamando, che è quella persona che si sentivano sempre, per cui non lo so se dopo è entrato, non lo so, però fino a 15 giorni fa io l'avevo sentito. Non lo so se sono dei ceri, comunque io ho sentito così. Che si è venduto completamente tutto, non le volevo sapere. Lui ci aveva le senove pure, te lo ricordi già? E io. Ma vai in macchina, è uno dei primi che ho sentito in macchina di quei baracchini. Chi la ce l'aveva? Che si faceva sentire pure forte. Un giorno stava, non so, la zona del portatore, se arriva ogni segnalone, vabbè, quello tira fuori, forse sarà stato modificato, non so, però si sentiva molto forte. Modificarlo, bisogna di modificarlo, c'è un apparato che fa tutto, c'ha eco, c'ha processore, c'ha tutto, dalla lavanda, non ha bisogno di amplificato perché scende col microfono che ha. Sì, ma mi sembra che ce n'è una versione che ha 40 watt o 45 watt di quegli apparati. È una versione che ho io, che ha 40. Quindi sono così naturali, no? Questa, poi ce n'è una, vabbè, che qua in Italia non so se l'abbiamo mai portata a 100 watt, l'ho vista su una rivista. 85, sì che l'hanno portata, è il nuovo modello. No, non nuovo, roba vecchia, sto parlando, che c'aveva un dissipatore dietro, per i camionisti americani, è enorme, una cosa che c'era già l'amplificatore interno, il linearino, dai, centinaia di watt fino a fuori. E il nuovo modello aveva 75 watt. Ciao Bulldozer, buonasera anche a lei. Ah, non si è detto a Pierpaolo stasera, buonasera, ne ha Pierpaolo, ne ha Pierpaolo. Sono il primo a dirti, anche io li ho sentiti. E dunque qua sta diluviando. Lo so. Guarda, li ho visti, ma sentiti no, li ho visti stasera perché sono andato lì alla Sisa, vicino a loro, a fare la spesa. Che è venuto Antonio a comprare. E poi ho visto a Pierpaolo passando. Li ho visti tutti e due, però poi ha detto anche tardi. Vi saluto, salutarvi perché deve stare ancora consegnato, era già tardi. E parlarci magari anche con qualcosa, non saprei. E tu dove stai andando? Da sud. Ancora no, adesso sto andando un attimino di dopo. Sta presto ancora, che ore sono? Presto, le 8 sono. Chi se l'ha creato tra le 9? Mi sa di sì, non so, credo che non è 9. Oggi noi mi abbiamo terminato tutte le spese natalizie, adesso mancano solo i regali a comprare. Allora, io ho appena iniziato a spendere. Avanti Roberto, buonasera anche a te. Stava studiando e sentito. Ma mi sento a colpi di radio, come mai? O c'è l'eco troppo pompato? E forse troppo veloce l'eco c'è, per quello che ti sembra di essere a colpi di radio perché sta ripetendo troppo veloce l'eco. Ho passato, non ti ho copiato, cosa? ci portiamoci, è facile, mangiamo. Facciamo logica, va bene. Addirittura una volta arrivata l'anno scorso mia moglie e non l'ho usata, una esattamente una volta solo, una volta solo già, e al padre l'ho lasciata. Cosa gli ho detto fallo, e poi alla fine se l'ha fatto, l'ho detto io, lo sai come ha migliorato subito. prima di quasi animali, un dolore, dice, non riusciva, perché il problema è guidare la macchina, dice, era una sofferenza. E la notte non ci andava la notte, perché non c'era nessuno, facciamo una limbruica, quando stava verso le 9, così si faceva tutta la passeggiata, che l'acqua non è neanche fredda, poi piano piano, una mezz'oretta faceva, saliva e scendeva quel pezzo della torretta. Vabbè, prima la torretta la faceva presita, e poi se saliva a casa sua. Ma a me il dottore me l'ha detto, che è normale che scendano i dolori dopo l'operazione, che ci vuole almeno una medicina di più, per passare a passare. In più adesso c'è il fatto che lì è pesante e quindi il peso ne influisce. Sicuramente, tanto no, quello non c'era da discutere. Basta, quindi dopo la vacanza rientri già. No, all'anno che viene. Ma se c'è qualcuno che ha chiamato, ma di chi è? Ehi, ciao Roberto, ciao doppio Ron, di nuovo, vai, partenza da parte mia. Beh, domenichi. Qua, sotto la pioggia, dai, stiamo andando. La compagnia ci siamo. Speriamo che non sia piovendo a Urgia, perché se la Urgia piove davvero forte. Ma negativo, questo qui prima di via d'Italia, dai. infatti, cioè so. Detto da mezzo di pesante, ma quella di Sacca sta dicendo? Ma quella di Cloaca, roba, è quella che poi si restringe, se va larga, tu la sono passare, dico quando si restringe. Io quando vado però prendo sempre il dubbio di Florida, se l'ha andata, ritorno prendo quella di discesa di Sacca, però la metà non mi passo mai di chi tu la prendi perché come la salita di Cloaca che fai? Ma se non deve arrivare non lo voglio, e poi adesso è chiusa, non si può neanche passare di là dalla salita da dopo da Florida, la diciamo, non si può più entrare lì. Che l'hanno chiusa di nuovo. Io faccio sempre quella salita lì, faccio. Com'è che non si può entrare, non è che mi interessa. Ecco, non si può entrare, come? Io non dico entrare a Florina, se no, hai visto il video? Prosegui, dopo c'è si torna sulla destra, fai 3 km e poi sulla destra c'è la strada, veramente entrare a Florina, se poi passi dietro traccheggiando la centrale elettrica. Io passo sempre da lì, quel pezzo di Kilivane. Anche io faccio. Per le vetture è aperta, ma per i mezzi pesanti è chiusa, capito? E poi adesso è chiusa anche per le vetture, perché stanno facendo dei lavori, ci stanno facendo. Ha di nuovo frenato, capito? Quella di Florida. Ah, ma è buona sapere, perché io al capolano devo andare in quinti. E devo andare a vedere a coso. Come si chiama quella casa dell'ora Pausina. Ma io c'ho una casa di capito, vado lì e c'è la casa a disposizione, me ne vado a dormire lì, non è che ritorno, no, ci sto due o tre giorni. Mia è la casa, non fraintende, non è la mia, ma è come se non fosse, perché ho le chiavi, entro, tranquillo. Tu la porto il cervo già, già lo so, non è inutile nasconderla. Ciao, dove sentiamo? La mia via Morris, è mia, e posso anche essere fiero di quello. Se ti dai la casa a porto il cervo, lo schifo ti fa, l'hai fatta. Ma io c'è la Urbia, dietro praticamente, non so se c'è dove c'è Città Mercato, Olbia Mare, la zona Olbia Mare, dove c'è il nuovo porticciolo, se c'era presente, che nuovo molo che hanno fatto. E lì c'è la casa di un amico che abita in continente e la gestisco io. Va bene, dai, va bene, no, è una bella cittadina, Olbia mi piace come posto, ci vado abbastanza spesso. È una bella cittadina, forse la cittadina più continentale che abbiamo in Sardegna, c'è un ambiente, un clima completamente diverso da tutta la Sardegna. Sì, è vero. Trovi l'autogrill, andando verso Volfaranci, trovi l'autogrill, poi già sì, è molto ambientata, perché ci vanno molti continentali, quindi si sono adeguati al modo di fare, ci sono un bel centro commerciale. Che cosa è la terza o la quarta della Sardegna come abitanti? È più grossa di Alghero, 160.000 abitanti, una cittadina enorme. Poi la gente, la maggior parte sono gente di Vula, ci sono un sacco di americani, stranieri, eccetera, eccetera. Cioè non sembri neanche in Italia, in certi momenti si è capito in certi punti. Sì, è vero. Ma gli la fila. E poi bisogna un po' di ventilofra, no, l'ambientazione a livello commerciale è un'ambientazione, perché se devi aprire un'attività lì devi chiedere il permesso, se no ti vogliono brincare. Ogni settimana se legge il giornale c'è saltato questo bar, saltata questa pizzeria, questo ristorante, ogni settimana è una cosa allucinante. Ovvio. E poi a livello di locali turni, entrenese, prostituzione, tutta questa roba qua sono all'avanguardia. Hai detto benissimo, è una città, te lo sto dicendo, dopo di quella c'è Alghero, secondo me in Sardegna, a quei livelli di delinquenza, di quei livelli così elevati stiamo parlando. Lì non ci mettono molto a spararti, c'è il racket, lì ci sono cose che a casa fortunatamente non ci sono ancora neanche a Cagliari, tanto meno a Nuoro. Ma in quella zona lì è già passata la mafia, la camorra, chi su chi è. Perché c'è il giro di sud, domenica. Non lo so. Poi visore di Napoli, gente che c'ha soldi c'è pure lì. Invece per il frutto è fiduciazzato, gira con macchine grosse e con i buffi sino al collo. Quelli che c'hanno i soldi, a parte vabbè, quelli continentali, sono in Urisi, mi dia, nella zona di Olbia. Stanno con io, mio cugino, che lui per lavoro lavora a Olbia all'ufficio tecnico, mi sa dire un sacco di cose. E mi ha detto chi sono i proprietari dei terreni, le migliori cose, sono tutti in Urisi, ex parturi che hanno comprato cani e pulci. E dopo ce ne sono i dati di rimbalzoni, Dove? Dopo Nicola abbiamo perso. Parturi nel senso dispregiativo, parturi nel senso, come le chiamiamo, alle parturi, dai, detto parturi, però c'è da dire che sono persone più che, come come si chiama, un lavoro di sacrificio. Io ne conosco tanti amici e ti posso dire che è un lavoro di sacrificio. Noi lo disprezziamo molte volte perché pensiamo siano gente, queste sono gente che si fa tanto suo. Si fa tanto suo, gira Mercedes e in Audi a 3, a 4, come ci sono quelli che nella zona di Coso, nella zona dove passo io a Monte Raso, ce n'è uno che gira con la Mercedes e con le pecore davanti e lui appresso. Sì, sì, già ne ho visto tanto, ma quello è il minimo, perché loro già hanno anche i soldi oltre alle macchine. Vengono una Mercedes, se la puoi comprare a Bluetooth, basta metterti un po' di latte, oppure te ne compri qualcuna usata, ma devi andare a una Mercedes, e beh, cosa vuol dire? Quello per me non significa niente avere il Mercedes. Chi ce l'ha veramente i soldi già, già se li conserva in altri modi. Vabbè, io faccio passo secondo la mia gamba. Non posso comprare una Mercedes e poi stare senza mangiare. La Mercedes vuole anche mantenere, vuole messa la nafta, cose del genere, bollo, assicurazioni, ruti, devi poteva cambiare una ruota, non so quanto la paghi, un faro costa 150 euro. Insomma, sono macchine che hanno il prezzo carissimo. Sì, no, ma è cambiato, ma allora, 20 anni fa chi c'aveva il Mercedes ti girava e te lo guardavi, a me ve l'hanno tutti, io ho amici con il Mercedes, se li vedi sono piccoli impiegatucci, un altro la carina ci è venuto in ufficio e ha detto, ma da dove cavolo ne hai tutti i soldi? Si è comprato il BMW Station Wagon 6.5 che costa usato, vabbè, di un paio di anni, full option con tutti i navigatori, i treni in pelle, c'è cioè, il punto, cioè, ma che cosa quanto fa? Il rappresentante di una ditta di roba inerente al lavoro mio, cioè. Ma piccolo rappresentante nel senso niente di importante, eppure lui finisce con questo BMW allucinante, fatto sono quelle persone che si mettono le ratte 50 anni a ratte, stanno senza mangiare, magari non vanno, non si comprano altro, però hanno la macchina nuova, loro sono i veri, tutti vestiti giacca e cravatta tutti i giorni, sempre la stessa giacca e la stessa cravatta, le scarpe lucidate a specchio e il e non c'è nient'altro. Se gli dici vai e comprati un gelato, non se lo può comprare perché c'è il pane al ratto. Beh, io avevo un amico che quando l'Alfa 75 era una signora macchina, lui aveva l'Alfa 75 e tu spari, sempre a riserva. Poi la gente vede l'officina di tutti i colori, pochissima gente di queste gente che ha le macchine, solo gomma, 90% è gomma, chi veramente ha i soldi non esce così vistoso, te lo garantisco io, cioè. Poi ci sono altre persone, tipo quel quattro di La Placca, ma Francesco, le ho letto proprio nel giornale, gli hanno messo 3 multe a Parigi, una multa con la Fiorano, la Ferrari Fiorano, una macchina che costa una banca di soldi, da divento di sorta, l'altra con l'altra Ferrari, la gente che a Ferrari era la 599, la più costosa Ferrari, e la terza perché è passato con Rosso, con la Maserati, con la Sportiva, e gli ha fermato il vigile e gli ha detto, il poliziotto, lei non sa che io con chi sa che, con chi si ha a che fare, il signore questo. Con una persona qualsiasi, per me l'interessante è che lei mi dia i documenti, la via d'inizio, si paghi la multa. Però io ho amici da tutte le parti già, in servizi pubblici eccetera del genere, anche nella stradale, nella finanza eccetera eccetera. Mi hanno raccontato certi particolari di questi fighetti, figli di politici, le cose, sì, dici, ma vai là, tu vabbè, posa di, facciamo tutto quello che dobbiamo provare, le chilometri, tutto quanto, di ce ne vuole, poi mi trovo il cagone che si caga sotto, però quelli che proprio fanno loro mettere con, come lo devono fare onestamente, non guarda ne faccia nessuno, e deve essere così. Già ci sono anche quelli della stradale che sono lufini, che ti fanno pagare cose che non devi pagare. Quindi io ho un amico della stradale che adesso è in pensione perché aveva avuto un incidente di servizio, è stato sparato, quindi mi hanno dato la pensione. Ma dice che un giorno lui di Sassia, però faceva servizio a Alessandria, un giorno è venuto qui a trovare i genitori e cose, stava facendo una passeggina a Polottolese con la moglie e l'hanno fermato la pattuglia della stradale. Si è avvicinato questo poliziotto, documenti, lui non gli ha detto nulla, neanche la poliziotto, niente, lui è un maresciallo della stradale. Dato documenti, tutto quanto, e fa, devo contestargli una cosa, dice che cosa? Dice qua non c'è la firma nella patente. E lui ha detto, ma io pensavo che non ci fosse nessun articolo che dicesse che devo firmare la patente obbligatoriamente. Si può firmare, ma non è che sia obbligatorio, no, è obbligatorio, adesso devo fare il verbale, e stava a fare lì, quindi e lui ha detto, allora facciamo una cosa, prendere il prontuario, mi facciamo vedere qual è l'articolo che praticamente ti impone di firmare la patente. E ha visto, il capo patrulla ha visto questo battibecco e a un certo punto è sceso dalla macchina e ha detto, che cosa c'è? Dice, no, stavo... Ah, poi gli ha detto, vabbè, allora mi paga la multa perché c'ha un faro che non funziona. Allora i fari funzionano tutti e due. Dicevo, multa non è pago, un faro che non funziona. Vabbè, ma noi mettiamo il faro, per non mettere di questo, se non sto a farle pagare di più. Gli ha detto, no, io pago quello che lei mi contesta. Se mi contesta perché non ho messo la firma, io lì a me li metti, mi scrive l'articolo che io non ho messo la firma nella patente e io pago per quello. Beh, fatto sta che alla fine il capo pattuglia, e quando è arrivato il capo pattuglia lui ha preso, si è presentato, gli ha fatto la documentazione e gli ha detto maresciallo, ha fatto il saluto anche e gli ha detto no, è che stavo scherzando, avevo capito che era un collega, questo e quell'altro, poi l'hanno trasferito qua a Sassari, e ogni volta che provava quella diceva beh, sempre fede firma battenti, sì. Infatti purtroppo c'è gente presuntuosa, ma quello da tutte le parti, dall'ufficio pubblico all'ospedale, alla polizia, alla fiata, ci devono essere persone intelligenti e i difficili ci sono da tutte le parti, purtroppo lo sai già, tutte le cose succedono, ci sono le pecore nere e poi ci sono i presuntuosi. Io ti dimostro, io ho conosciuto persone, personaggi importanti, di colpi importanti, tipo finanza e cose del genere, generali, che alla fine quando si sono presentati, supportati da altre persone, quando mi ha detto che era generale, ha detto, cioè mi ha detto un'altra persona che era un generale, non ci volevo credere, una persona di un'umiltà e una gentilezza, una cortesia allucinante. Poi vedi il primo maresciallo che non conta nulla, o il primo appuntato, ti pari, c'è la Presidenza della Repubblica. Purtroppo ci sono tutte le parti già queste persone. Vabbè, è proprio vero che l'abito non fa il monaco. Vero, lo so, purtroppo ci sono queste persone ma non le puoi cambiare, la cosa di tanto si sente qualche carabiniere corrotto, qualche poliziotto, ma quelle cose ci sono da tutte le parti, non è siamo in politica, sennò bisogna mandarli via e bruciarli tutti quanti a fuoco lento. Purtroppo ci sono anche negli ospedali, ci sono nelle scuole, e non esiste un punto, siamo italiani, noi la cosa nostra è della furbizia, da tutte le parti, se tu vai in Giappone queste cose non esistono, o almeno esistono in una parte, in Germania idem, qua in Italia siamo furbi, ci crediamo almeno furbi. O vuoi sapere del resto del collega che hanno beccato? Per colpa, l'ha denunciato l'autista, questo qui fermava il camion e... per non farsi controllare richiedeva 100 euro eccetera eccetera, ripartivano subito, li metteva 100 euro in mezzo al libretto e poi ripartiva. Questo qui ha fatto una villa astronomica proprio con un vialone tutto illuminato, piscina, questo e quell'altro, quando poi questo qui è andato, l'ha denunciato, gli hanno detto praticamente il giorno che lui era di servizio di passare lì, se lo fermava di dargli i soldi normalmente, però i soldi erano praticamente presi alla serie, capito? Ha preso la serie e l'hanno pubblicato. Sì, io lo so, purtroppo, ma questi sono poverini, c'è gente che no, non capiscono niente, cioè cosa le vuoi fare, gente con la raccia, cioè non sono neanche intelligenti, perché rischi il posto di lavoro, la posizione per quattro spiccioli, dai. Facciamo prendere. Purtroppo io mi auguro e spero che siano proprio delle cose, delle minoranze queste persone. Purtroppo ci sono delle persone che si invadono un matto, che stanno la mattina alla sera col rischio, e poi ci sono questi imbecilli che per colpa loro poi si fanno una brutta reputazione, il coso, tutto il coso, il corpo, come militari. Ti ricordi quando erano successi quei fatti del coso del battaglione San Marco? No, non del battaglione San Marco, non mi ricordo, comunque uno di quelli famosi, tipo la Brigata Cassari, per colpa di due imbecilli hanno smerdato tutta la cosa, tutto il battaglione. Ma non sono due lire la roba, si fanno un conto che fermano anche 30-35 camion al giorno, se no gli mettono 100 euro e mezzo al libretto, gli dirà che si fa, gli darà di... Mi chiamate? Dove è Ghino? Dove sei? Ma Domenico, c'è Crucisa Gianni, ha detto Domenico. No, arrivano perfettamente qua, molto buono segnale e buona radio. Avanti Gianni. A Muro sì. E allora mi ascolti Domenico la zona. Va bene. Andare, noi. Buon continuo voyage. Dai, vediamo se riusciamo a farti accompagnare, se no per sentino. Magari noi riusciamo, cioè tu riesci a sentirlo e poi arriviamo a un certo punto che l'antenna tua diventa un po' critica, non riusciamo più a tirarti fuori. Dai, finché ci senti. Avanti Domenico. Purtroppo erano sopra. Mi auguro che non ci siano problemi di altre cose, che vabbè, io non credo, perché con tutta questa cosa che sta facendo gli altri lo sciogliono, non ci sono problemi. Ma deve stare attento a qualcuno che magari è in mezzo strada, più che altro, perché con la pioggia magari qualche cosa tipo trovare qualche automobilista, qualche macchina in mezzo strada, magari. Ok, va bene Gianni. No, non c'era il ghiaccio, perché stamattina presto perlomeno non c'era. Sono andato io a Nubi, che è della di Monatania, lì dopo Osico, sono passato da Osico, da lì e sono andato verso Nubi. Non c'era il ghiaccio, anzi c'era il sole. Yeah, domenica è prevista, la mattina neve sciolta, figurati. Domani la temperatura percepita a meno 6 gradi, ci sono 4-5 gradi di temperatura effettiva, col vento percepita dai 6 ai 7 gradi negativi. Fatelo conto, domani è previsto freddo. Ma dov'è? Nella zona di Sassari? Nella zona di Sassari. Domenica mattina le temperature si alzano un pochettino perché diminuisce il vento, però si alzano, nel senso le percepiamo meno fredde, però la temperatura si abbassa un pochettino. Poi secondo me la neve sciolta c'era da oggi, perché le gocce erano congelate, mi è caduta una goccia sul collo, era ghiacciata roba. No. Ma poi qua è una semicidia del tempo, perché qua c'è umidità, ma se tu te ne vai in alta montagna, nelle Alpi, io ci sono andato a meno 13 gradi, ma una volta in vita mia ci sono andato di lì a 3.000 metri, ma no, 2.300 metri, c'erano meno 13, ed eravamo in magliettina, già, tipo su di, non dico che c'era caldo, però stavamo in magliettina, c'era il sole splendente, e c'erano meno 13, va bene, vedi che Caraldi, però c'erano meno 13. E vabbè, io oggi sono stato 1.100-1.200 metri. Ma non il vento già, quando c'è il vento, cazzo, è micidiale. Vediamo Domenico se ci ascolta ancora, avanti Domenico. Sta parlando Domenico, che fa? No, non è certo, siamo arrivati ai 6-7 gradi, però domani è previsto ancora un abbassamento delle temperature, poi da lunedì c'è un miglioramento, però domani il picco tocca di temperatura, e così la domenica mattina. Vediamo, c'è anche Pierpaolo, se lo ascolti, Pierpaolo, avanti per domenica. Buonasera. Se la stiamo partendo una nave, tu hai capito, vero io. Mi butti più, non hai compreso, guarda il tuo segnale io. Ciao, Pini. Il segnale può variare. La voce può variare un po', come quando coincide il segnale, la voce difficilmente mi sbaglio, oppure ho sbagliato, lo dico, ma è buttito un più di una busta, però il trombone di navi è già si comprende che di tutto. Addirittura mi si capisce la nave, proprio. Ciao Giannino! Poi Pirino! Ma è finito tardi! Cavaro, è finito tardi! Me l'ho immaginato, ha fatto una quattrone dopo che ho trovato mia moglie, lì, mamma mia, una quattrone, ma con questa qua ghiacciaccia, deve essere neve sciolta. Ma insomma, ma deve parcheggiare proprio nel merchio, io ho bloccato tutta la fila del traffico. No, veramente non stavo vedendo mia moglie avanti, ma poi c'è questo qua. Allora, noi ci siamo messi nel parcheggio più giusto, solo che siamo entrati di sbieco e stavamo aspettando che uscisse la macchina che c'era di fronte, che era nel carico scaricomici, per far manovra per addrizzare la macchina nostra. Poi mia moglie ha detto, tutto scaricomici, lasciala qua 5 minuti, già stiamo uscendo subito. E l'abbiamo lasciata lì, invece quello che dietro, che era tranquillo, si è messo dietro. Lui si è messo nel parcheggio buono, e noi carico scaricomici, ma senza mai pensare che la sera andasse a scaricare, noi vengo la mattina presto a scaricare, quindi non immaginavo, vengo alle 6 addirittura, non immaginavo che la sera andassero lì a scaricare. E niente, tutto lì. Dai, attorno. No, negativo, già li scaricano tutto il giorno, anche se sta tardi. Comunque non è partita neanche più indietro, perché da giù, da via Torres, fino a giù, è tutto di vieto di sosta. No, un attimino, sta chiamando Domenico. Avanti, dove? Adesso sei Santiago 5, adesso si è abbassata un pochettino. Comunque, me ne ascolti? Passerà a Gianni, avanti Gianni per Domenico. Ah, io non lo sento più a Domenico, è sparito proprio. Domenico, mi sta rispondendo? Certo, dice già il silico. Ma mi senti? Mi sta rispondendo, ti sento. Riprendi Roberto. Vai, va qualche camionista lontano già, a parte mi sembra fuori frequenza, lui non si comprendeva l'altro, però capì, K2 cos'era, quello che si è sentito bene, ma era molto più forte di quello. Ma non sento bene manca quello, lo sento fossato. Quello che mi sta mangiando con un panettone in bocca. Non mi fai invitare il panettone che, non sai che mi sono comprato, ho visto l'altro giorno, sono andato alla coda a fare la spesa, io ho visto il panettone della Motta, quello con tutti i canetti e con la pasta come piace a me, perché a casa li comprano sempre farciti e a me quelli non mi piacciono naturali, dai. Ne ho mangiato due fette di quel panettone, mi ha bruciato di stomaco, ma da crepare, fuoco. Guarda, a me il panettone è una cosa di Natale, proprio aspetto Natale per il panettone, addirittura me ne compro parecchi quando poi ci sono le offerte, dopo, quando finisce Natale verso gennaio, di, e mi dico quando li danno a metà prezzo, che poi alla fine gli ultimi li danno, per dire se costava 10 euro te lo danno a 1 euro, ma mi dico me ne mangio sino alla fine, sino alla scadenza, che mi piace di dopo, però il panettone classico è il migliore di tutti, però io preferisco quando mi imprendo quello senza i canditi, solo con l'uvetta che te ne mettono me, che è troppo buono. Avanti, tiri. Voglio mettermi in contatto con Falchetto. Falchetto non c'è, ha chiuso. Mi sentite bene ora? Cappa, adesso va meglio, dai. Non bene bene, ma va meglio. Chi sei? Cappa dove? Non è stato fatto chiudere a questa... Le moduli, dai. Cosa sei usando? Qualche lineare? Non come prima l'ho regalato, ma non so, è un lineare, allegro. Allora come faccio a spiegarti le cose? Se non sei se a lineare, hai un apparecchietto, oltre la al baracchino c'è un altro apparecchio. Un amplificatore già. Come le regolazioni? Tu dovresti avere un apparecchio lì a fianco, che è un amplificatore, dai. Sì, ma non c'è nessuna manopella, senza sole o... E invece le manopelle del barracchino o le avrei? Barracchino? Dipende che barracchino c'hai. Sì, Alan 48? No, 68. Ah, il 68, ok. Beh, dimmi le manopole, io ti dico come le devi regolare. Lo squelce, portalo tutto verso sinistra. Sì, RFG tutto al massimo, a destra. Sì, il microfono... Mike Gay tutto a destra. Ascolta, le vanno a fare di più queste. Dimmi cosa c'è, il filtro. Sì, il filtro come? E dimmi se c'è AML. Sei in casa? fortissima, perché lei ti arrivano molto, molto più forte. E io come ti arrivo? Mi ascolti bene? Sì, sì, non fa male. Ma Gianni, senti un po' Gianni. Vengo, ma mi ascolti, guarda come mi ascolti. Hola, hola. Benissimo, arrivi su. Ciao, gara. Per Paolo Ribrico. Però capo due, che segnale mi dà, ma? Tu sei su due. Sul 2, che cazzo è sul 2? Cosa vuol dire? Sul 2, perché c'è anche il 2 già, la 68. Ma c'è le diette, no? C'è uno, poi dopo l'uno c'è il 2. E già ne arriva a 5, più forte di me è il 3. È strano, ti può sembrare, che sia più forte. Sì. Guarda, vedere se l'amico lì ti dice se la vera, come è? Ripeti, mi ha detto, non compro di nulla. Vabbè, vabbè. Vedi un po', ti ascolti, Pier Paolo, la vera uno, cambia. Mi sento, cambia tu. Cambia di rimbordi, la tanto. Ho detto, ha cambiato il tempo. Ho detto, cambia tu, cambia tu. E deve essere nuovo, dai, K2 è nuovo, sì. Sì, sono appena entrato, un paio di giorni. Ti appare chi ti appare? No, mi hanno fatto un regalo, non mi convinco che stava con voi. Non capito, Torino. No, conosciamo molto il panchetto. Falchetto? Capito. Perché Dio si dice, tra le Torino con la scorta la gente. Ma non è Torino, ma così conosceva Falchetto, Falcone e 33. Ah, Franco! Beh, capo lui, sei? Io ti devo usare, ah, vai così, sono a Usi. Uli? Uli! Ho capito, no, aspetta che andiamo prima a vedere tu, ti l'avevo capito, infatti è troppo forte, non mi arrivi a essere così basso. Ah, Usi? Sì, sì. Usi, Niente. Ma lui prima ha detto Iti? Lui? Oh, no, io l'ho sentito da te. L'ho sbagliato io, vabbè, mi sono confuso nel confondere. Non riesco più a beccare il momento giusto. Perché ti fanno arrestare il campanile? Non si può modulare, non si può modulare. Adesso si sa, lo vedi, cosa è toccato? Poi lì bisogna venire e regolare stazionali tutto quanto, va. Non fa così. Avanti, Anto, sentivo sbigliare, ma no, non riuscivo a capire cosa stavo dicendo. Era meglio guardarmi. Ma è tutta la sera così, non è solo quello, è che esce tutto santo, non si capisce cosa dice. Te l'ho detto, gli ho provato a regolare l'apparecchio, tutto quanto, no, c'è qualche cosa che non va nella testa. Bisogna che si regoli le stazionali e basta. Ma è pratico o no? No, non è pratico, è nuovo, gli hanno regalato l'apparecchio, la 68, con l'antenna da mettere sul balcone, eccetera, eccetera, l'ha piazzata, ma no, non rende, c'è qualcosa che non va. Devo guardare il cavo, e pian pianino deve farlo vedere da qualche persona che ne sta già. E lo potete farlo vedere a Torino di Usini, di farglielo guardare a lui. Ma dice che sono lontani. Te lo conosce? C'è di usi, di questo che lo conosco. Certo. Perché di usi, se uno non sa le cose, non andare in nessuna parte, sta a difficoltà, va. Pian pianino si deve mettere a posto tutto. Se fosse stata la sassa, da avrei ci vado io, lo controllo. Ma... tra usi, avanti, avanti, avanti, Papo. Dove? Yeah. Mi è venuto so quasi, ma tu non ce l'hai fatta andare là. Se me lo dicevi non ci saremmo andati. Io ti stavo chiamando, aggiudicato, uno va trovato, con la cavetta qua. Vai cane, vai, vai, ce l'andiamo a parlare che lui ci segue dopo, vai. Se ci voleva cercare, vai, tu vai. Ma se andate mi fate un piacere, almeno so dov'è. Andate, andate.